Salva Danaio di Deborah Rosciani. Le tensioni sui mercati finanziari internazionali si sono notevolmente allentate rispetto a un anno fa. Le banche sono tornate a raccogliere fondi e hanno effettuato in diversi casi importanti aumenti di capitale. Nelle ultime settimane è tuttavia aumentata la volatilità sui mercati. Una ripresa dell'economia mondiale è in corso, ma in modo difforme nelle diverse aree. Nelle previsioni degli organismi internazionali e degli analisti privati, quest'anno Cina, India e Brasile tornerebbero agli alti tassi di sviluppo pre-crisi. Non così le economie avanzate, la cui crescita rimarrebbe modesta. Le quotazioni del petrolio e delle altre materie di base sono risalite. Ciononostante, l'inflazione rimane frenata dagli ampi margini di capacità produttiva inutilizzata. Il ritorno alla crescita è ancora fragile, segnatamente nell'area dell'euro. L'occupazione tarda a riprendersi, le condizioni del credito alle piccole e medie imprese, tuttora stringenti, frenano la ripresa. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Molti di voi, forse non tutti, lo avranno riconosciuto, era il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Nel fine settimana, nella città di Napoli, ha ospitato il Forex, l'appuntamento annuale degli operatori finanziari, che è tra l'altro anche il palco da dove ogni anno esprime delle considerazioni ufficiali il governatore della Banca d'Italia. Noi oggi commenteremo i risultati e le reazioni rispetto all'appuntamento di quest'anno. Abbiamo estrapolato alcuni passaggi dell'intervento di Mario Draghi, in particolare le parti relative alla situazione sui mercati, che sono riflessioni sempre interessanti per chi guarda questi temi anche per effettuare le proprie scelte di investimento. Naturalmente i più attenti in questo fine settimana nei vari articoli apparsi sulla stampa avranno notato che il governatore è intervenuto di nuovo anche sul tema del rapporto banca-cliente, sul tema delle commissioni applicate a fidi e scoperti di conto, chiedendo alle banche di fare più chiarezza sulle condizioni contrattuali applicate ai clienti. Noi su questa questione in particolare faremo una puntata a parte. Altro tema interessante, sempre per gli ascoltatori più fedeli di Salva Danaio e quelli particolarmente attenti alle tematiche di risparmio, è stato il tema sollevato ieri nel convegno finale del Forex dall'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, sulla questione dei rendimenti dei cosiddetti conti di deposito, perché ha detto ad alcune banche straniere sono permesse cose che a noi banche italiane non sono permesse, al fine di aumentare le remunerazioni dei correntisti. Anche su questo ci torneremo ma nei prossimi giorni. Oggi ci dedichiamo agli scenari macro delineati dal governatore, che, come avete sentito, ha parlato di una crescita italiana ai minimi europei. Questo è stato il tema particolarmente enfatizzato da tutti i giornali in questi giorni, di un recupero lento per quello che riguarda il nostro paese, perché è un recupero legato ovviamente al ciclo internazionale ma anche alle difficili condizioni del mercato del lavoro in Italia. Allora, con chi affrontiamo questi argomenti? Con gli organizzatori di questo evento, giunto alla 16ª edizione, Gregorio De Felice, presidente dell'AIAF, l'Associazione degli Analisti Finanziari Italiani. De Felice, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. E bentornata anche a Claudia Segre, nominata proprio in questo consesso segretario generale di Assium Forex, che tra l'altro spiegheremo anche che cosa fa questa organizzazione, perché nel fine settimana si è definita anche la fusione fra le due organizzazioni Atic Forex ed Assium, e quindi spiegheremo appunto che cosa vuol dire ai nostri ascoltatori tutto questo. Bentornata Salva Danaio. Grazie dell'invito. Allora, ovviamente potete interrogare i nostri ospiti, io mi intratterrò con loro proprio sul significato di questo appuntamento, ormai appunto un consesso ricorrente e molto importante, a cui si guarda appunto con grande attenzione ogni anno. Ma se voi invece volete sollevare le tematiche finanziarie ed economiche appunto come oggetto dei vostri interrogativi, come sempre potete farlo all'800 24 00 24, ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Temi macro: la giornata finanziaria guarda l'inizio del vertice Ecofin che si conclude domani, i ministri finanziari dell'area euro naturalmente dovranno esprimere qualche dettaglio in più rispetto alla questione greca, che è sotto i riflettori come sapete tutti da diverse settimane. Peraltro in questi giorni stanno ritornando notizie piuttosto curiose sulla stampa relativamente a come avrebbe gestito la Grecia il suo debito in questi anni, con qualche artificio anche contabile che sarebbe stato supportato da alcune grandi banche d'affari americane. Insomma, si ritorna a parlare di questo. Detto questo, oggi il mercato non guarda a queste vicende che oggi vengono ampiamente commentate dai giornali. Guarda d'altro, l'Europa è tutta positiva, con rialzi di circa un punto percentuale a Francoforte e Londra. Parigi guadagna un po' meno, più 0,7%, Milano guadagna di più, invece la miglior piazza d'Europa, più 1,17%. Sul FTSE MIB, migliori titoli, quelli del settore editoriale, CIR, più 3, Mondadori, più 2,84, Impregilo, più 2,52, Mediolanum, mi rialzo di 2,5 punti, anche Fiat, anche Unicredit, Mediobanca e il Banco Popolare sono in progresso di 2 punti, il segno meno invece insiste su Prismian, che perde 2 punti. Campari meno 1,77, Saipem meno 0,44%. Non si schioda dal rapporto 1,36 l'euro sul dollaro. Stamattina, per la verità, era scivolato anche un po' più in giù, a 1,3598 circa. Adesso riprende quota, ma in ogni caso il dollaro sta tornando, insomma, a riprendere un po' di posizioni sull'euro da diverse settimane, soprattutto da quando la questione greca è tornata un po' ad agitare i mercati e gli animi degli investitori. Lasciamo la borsa di oggi, ma parliamo di mercato in termini più generali sulla base di quello che ha detto nel fine settimana il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi al Forex di Napoli. Claudia Segre, cos'è il Forex? Cos'è questo appuntamento? Ma è un appuntamento che nell'arco di questi ultimi 16 anni ha accompagnato gli operatori in un approccio, direi, più unico che raro, con il governatore della Banca d'Italia e con quello che è una visione del mercato e delle prospettive di mercato estremamente lucida e importante per l'avvio dei lavori di inizio d'anno. In questo caso l'appuntamento è ancora più importante perché a fianco dell'Associazione degli Assi Finanziari c'è stata appunto la fusione, come lei ricordava, tra l'Associazione Operatore dei Mercati Capitali e l'Associazione Attic Forex dei Tesorieri e dei Cambisti, e quindi si è creata un'associazione di operatori di mercato che a livello europeo sarà la più numerosa e quindi quella che potrà contare di più in un momento cruciale dove normative, regole e, come si è visto dal discorso di Draghi, diventano un punto cruciale e fondamentale della prossima attività bancaria e di un modello europeo che forse, come si legge tra le righe, è un modello decisamente migliore di quello che abbiamo sperimentato a livello anglosassone. Modello europeo che peraltro comunque un'uniformità europea delle regole viene chiesta anche dai banchieri, che ieri hanno fatto il loro convegno finale rispetto a questo appuntamento. E allora un po' il padrone di casa era anche Gregorio De Felice, presidente dell'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari, e anche capo economista appunto di Banca Intesa San Paolo. Qual è stata la parte della relazione di Draghi che l'ha colpita di più? Qualcuno ha detto, leggevo stamattina qualche commento postumo all'evento, che il suo discorso è stato molto concentrato nell'ambito internazionale rispetto al passato, più che dare una lettura, diciamo, delle problematiche domestica. Ha fatto anche questo, ma in misura inferiore rispetto al passato, perché qualcuno dice lui sta studiando chiaramente da governatore della Banca Centrale Europea, quindi questo insomma è stato un po' l'aspetto sollevato. Che ne pensa? Ma io credo che non abbia bisogno di studiare questo, perché è già abbastanza, molto preparato anzi, per fare il governatore della BCE. Draghi ha dato un taglio internazionale al tema perché i mercati sono talmente internazionali e queste problematiche, le problematiche che stiamo vivendo in questi giorni, quello della Grecia, il tema del cambiamento delle regole, riguardano noi tutti come operatori finanziari. Nessun operatore finanziario italiano guarda unicamente al mercato italiano dei titoli di Stato o azionario, perché davvero i mercati sono molto molto globalizzati. Il tema delle regole non può essere risolto in un unico paese. Anzi, quello che è stato un forte richiamo che noi tutti, come AIAF e come Assium Forex, fortemente condividiamo, c'è in questo momento una problematica di coordinamento che sta un pochino vacillando, soprattutto dopo gli annunci fatti da Barack Obama a fine gennaio di volere in qualche modo partire con delle proprie iniziative che sono divergenti rispetto a quelle di Basilea 2 e di quanto concordato nei G20 di Londra e di Pittsburgh. Ecco, tra l'altro poi magari ci ritorneremo su questa ricetta di Obama per come dire un po' permettere anche al sistema bancario di risollevare la sua reputazione nei confronti di tutti. Lui propone di suddividere l'attività commerciale retail da quella praticamente legata al settore proprio degli investimenti. Segri, cerco di dirla in maniera molto semplice per dare una mano ai nostri ascoltatori a capire appunto come ci ci si sta muovendo intorno a noi, teoricamente così, chiaramente in Europa si guarda con un po' di scetticismo a questa proposta di riforma. Ma sì, assolutamente, perché ricordiamo che le banche sono il motore dei mercati, il motore dei mercati sono quello che rappresenta la liquidità e quindi il riferimento principale degli investimenti. È logico che se la parte di investimento, la parte di attività di market maker, quindi di fautore dei prezzi del mercato, di supporto alla liquidità del mercato, viene a mancare o viene penalizzata in maniera pesante, una banca non può semplicemente vivere con l'attività commerciale, perché c'è un'attività verso le imprese e le famiglie, c'è un'attività verso il mercato. A seconda della struttura della banca, le une o le altre possono essere più o meno evidenti, ma entrambe le cose fanno sì che la banca sia gestita efficientemente e sui due lati possa anche supportare il sistema, soprattutto sul lato domestico, delle aste e così via. Quindi una funzione di servizio che torna al sociale, ma deve essere anche al mercato. Quindi non si può prendere di mira l'attività della banca di investimento perché sono state usate delle leve da hedge fund da alcune banche americane in maniera più preponderante. In Italia la vigilanza, i controlli e la coerenza di gestione dei banchieri hanno dimostrato invece un impegno alla fattibilità del servizio bancario fatto con la testa, e si sono visti dei risultati che dimostrano e premiano il sistema italiano. E infatti, che tra l'altro è stato anche un aspetto ampiamente riconosciuto nella relazione del governatore, che poi è tornato ovviamente a bacchettare le banche per il rapporto con il cliente, soprattutto sulla questione della commissione di Bassimo Scoperto, ma complessivamente appunto c'è stato un plauso su come i gruppi bancari italiani sono stati gestiti in questi anni, anche se Draghi ha riconosciuto che la redditività è peggiorata negli ultimi mesi di pari passo con il deterioramento, ha detto, della qualità dei loro prestiti. Magari su questo ci torniamo, però siccome ho promesso agli ascoltatori di parlare fondamentalmente di mercato, quello che ci preoccupa in questo momento è ciò che sta avvenendo in Grecia, sentiamo allora anche questo passaggio dell'intervento del governatore. Nelle ultime settimane la situazione dei conti pubblici della Grecia ha allarmato i mercati finanziari internazionali. Se il governo greco attuerà il risanamento di bilancio con determinazione e con la puntuale, trasparente verifica da parte della Commissione europea e della Banca Centrale europea, io credo che saranno gli stessi mercati a sottoscrivere i titoli che verranno in scadenza, come avvenne per l'Italia all'inizio degli anni 90. È comunque importante che i paesi dell'area dell'euro abbiano espresso la volontà di intraprendere, qualora la situazione lo renda necessario, azioni decise e coordinate per garantire la stabilità finanziaria dell'area. Avete sentito dunque, Draghi esprime il suo plauso anche per l'esito del vertice di Bruxelles di fine settimana, della settimana scorsa. Oggi vedremo poi dall'Ecofin cosa emergerà e se queste azioni decise e coordinate per garantire la stabilità finanziaria dell'euro, come dire, verranno espresse da Bruxelles in maniera un po' più dettagliata, perché il tema era stato anche questo, non c'era stata una grande chiarezza su questi interventi garantiti soprattutto da Francia e Germania. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina abbiamo preso la relazione del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, l'abbiamo spezzettata un pochino, quella che ha tenuto sabato scorso al Forex, l'appuntamento di Napoli con gli operatori finanziari. C'è un ascoltatore che chiede di dare una definizione più comprensibile di Forex, adesso lo aiutiamo. Ci rendiamo conto che qualche volta per qualcuno può essere anche un po' complicato affrontare certi temi, ma non possiamo sempre parlare di mutuo, di tasse, di prestiti e quant'altro. Anche questi eventi qualche volta è interessante monitorarli da vicino, perché poi ci interessano quando andiamo anche ad effettuare delle scelte di investimento, quindi capire anche cosa ci capita intorno può essere utile anche per effettuare delle scelte più ponderate e più consapevoli. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, potete continuare a prenotarvi. Vedo le domande anche un pochino sciocche questa mattina, come chi insomma sempre un po' a lamentarsi su queste personalità che pagano, che parlano, che non danno mai soluzioni concrete al problema. Insomma, magari considero anche un po' sciocchi questi che ci scrivono questi commenti, così un po' che lasciano il tempo che trovano. Andiamo alle questioni di sostanza, le questioni interessanti, e stamattina poco fa, prima di andare in pausa, vi ho proposto la parte dell'intervento del governatore sulla situazione greca. Gregorio De Felice, presidente dell'AIAF, appunto, ripeto, l'associazione degli analisti finanziari, situazione greca che dopo il vertice di Bruxelles è al centro oggi e domani dell'Ecofin. Non si è ben capito che tipo di ricetta l'Europa potrebbe adottare se la Grecia, speriamo di no, dovesse dichiarare bancarotta. C'è un test importante a marzo, la nuova asta dei titoli appunto del debito greco. che dovrebbero essere, speriamo, collocati senza difficoltà, ma in ogni caso, se questo non dovesse succedere, secondo lei, Francia e Germania come soccorreranno la Grecia? Allora, questo è un tema estremamente concreto su cui penso sia importante che tutta la popolazione europea sappia esattamente che cosa sta succedendo. La Grecia si è presentata con dei conti sostanzialmente truccati, non corrispondenti a quello che veniva dichiarato alla Commissione europea. Il meccanismo europeo che ha portato alla creazione dell'Unione monetaria nel vecchio continente non prevede una soluzione per le situazioni di emergenza di un singolo Stato membro. Quindi non è previsto che ci sia una solidarietà, un prestito, una garanzia per quanto riguarda i titoli pubblici di un paese membro dell'Unione monetaria. Anche perché teoricamente ci sarebbe il Fondo Monetario Internazionale che è deputato a svolgere lavori di questo tipo. Sì. Il lavoro sporco dovrebbe farlo. Il lavoro sporco o i killer sono altri. Però anche il Fondo Monetario Internazionale non è tenuto ad intervenire. Adesso non voglio drammatizzare la situazione, però cercare di far capire come si sia entrati nel rischio di una situazione di stallo in questo momento. Allora, l'Europa non è tenuta a intervenire, la Grecia dice che ce la può fare da sola. Il punto però è che nei mercati finanziari, ma così come nella vita di tutti i giorni, il meccanismo delle aspettative è fondamentale. Se noi creiamo delle aspettative di soluzione del problema il mercoledì e il giovedì e poi questa soluzione non arriva, poi i mercati hanno dei tracolli, delle delusioni che si trasferiscono queste delusioni in forti vendite. No, tra l'altro stavo osservando anche il rialzo di borsa che sta continuando, significa che il mercato crede che in ogni caso la soluzione in tasca Francia e Germania ce l'hanno, anche se non l'hanno voluto esprimere chiaramente? Ma oggi c'è la riunione dell'Eurogruppo, domani l'Ecofin. Io credo che sia difficile che si venga fuori con una soluzione concreta, con un prestito da parte di alcuni paesi o di alcune istituzioni finanziarie. Però è un tema delicato. Io credo che l'Europa deve dare una risposta da questo punto di vista, che non vada delegata al Fondo Monetario Internazionale, perché è un problema europeo. Se noi europei la delegassimo a Washington, agli americani, ancora una volta, emergerebbe questa continua debolezza dell'Europa che non è capace da sola di risolvere i propri problemi. La Grecia non è un paese grande, stiamo attenti al rischio contagio, perché se dovessimo continuare ad avere problemi sulla Grecia, poi si potrebbe passare ad altri paesi europei che sono in difficoltà. È il prossimo passaggio infatti che volevo affrontare, perché sarà che c'è ancora questa voglia insistente di voler rassicurare un po' tutti. Ieri in campo sul tema del rischio contagio è tornato anche il numero uno della Banca Centrale Europea, Trichet, che ha detto rischi di questo tipo non esistono. Segre, siamo davvero così sicuri? Ma io vorrei precisare una cosa, è vero che c'è una presa d'atto dell'Europa, che c'è la necessità anche di o dotarsi di un fondo monetario europeo o di darsi una nuova regolamentazione per coprire questo tipo di rischi sovrani, perché abbiamo assistito nell'ultimo mese a un attacco nei confronti dell'Europa che mai non si era visto, e quindi una speculazione sul rischio sovrano alimentata certamente dalle difficoltà della Grecia e seguentemente del Portogallo e della Spagna come altri paesi dell'area dei periferici. Di fatto il Fondo Monetario aveva aiutato la Lettonia e l'Ungheria, quindi non nascondiamoci sul fatto che l'Europa era ricorsa nel momento più difficile della crisi al Fondo Monetario e quindi agli americani. Ora è il momento di fare una prova di forza, di tirarsi sulle maniche, ma di dare dei messaggi chiari. Come diceva Gregorio De Felice, la scorsa settimana abbiamo vissuto sul mercato una volatilità, e qui mi metto il cappello responsabile fixed income, che non si era mai visto sul bund o sull'obbligazionario, ma che abbiamo sperimentato negli anni delle crisi emergenti. E questo perché il messaggio delle autorità deve essere chiaro. Certo, non ci aspettiamo dettagli oggi o domani sulla questione fiscale nella puntualizzazione di quello che è il supporto alla Grecia, ma ci aspettiamo dei messaggi chiari, che l'Europa finalmente si affranchi in un ambito di modello europeo, come dicevamo all'inizio, in un ambito di sistema bancario più virtuoso, che ha vigilanza, che ha supervisione e che è capace a livello sovrano di dare delle risposte. Quindi è questo il messaggio che si aspetta e che forse stamattina sta un po' scontando positivamente il mercato. Ricordiamo che stamattina i mercati asiatici sono hanno chiuso in negativo, che abbiamo una questione Dubai in sospeso, quindi a livello geopolitico non è che i problemi non ci siano, però è questo il momento proprio dell'Europa, e quindi questa prova di fiducia, se vogliamo, oggi dalle borse, speriamo che sia un così foriera di notizie concrete positive, insomma, assolutamente, perché il messaggio fa molto di più di quelle che poi sono le azioni che devono seguire in queste situazioni. Allora, tra l'altro, sempre relativamente alle domande dei nostri ascoltatori, in questo caso mi riferisco a una che è arrivata al 349-238-6666, qualcuno ha avuto l'idea, comunque, come dire, il coraggio, poi non so quando questo acquisto sia stato fatto o meno, di mettersi in portafoglio obbligazioni greche, evidentemente anche quando magari il mercato era più sereno. Un ascoltatore dice: io ho acquistato obbligazioni greche con scadenza 2013, almeno in realtà ha scritto 213, l'ascoltatore forse voleva dire 2013. Allora, qualche gestore del settore obbligazionario come dire, è riuscito anche a portare in attivo i propri portafogli nei mesi scorsi, proprio grazie a questa strategia di puntare sui titoli greci a scadenza molto breve, naturalmente per incassare anche dei rendimenti interessanti. Quello che voglio arrivare a dire, magari per chi volesse anche approfittare del momento speculativo, forse è meglio che sulle scadenze tanto lunghe della Grecia non ci si posizioni segre, oppure perché certamente magari queste con difficoltà potrebbero essere rifinanziate, non lo so, magari una il cosa. Il problema è che la volatilità la sentiamo sulla parte lunga per un eventuale effetto di duration, ma come anche sulla parte breve per un'eventuale diciamo così problematica di rollover del debito, quindi di rifinanziamento del debito, che è dalle aspettative può essere visto come difficoltoso, come si dice alle prossime aste in marzo. Di fatto quindi questo piano sarà un po' lo spartiacque della percezione degli investitori. Chi investe in questo momento in Grecia e quindi agisce comprando sulle debolezze e deve avere il cuore forte, quindi essere pronto a subire una volatilità che seguirà gli annunci che verranno fatti. Che verranno fatti, infatti. Allora, un altro tema toccato da Draghi: fallimenti di grandi istituzioni. Era il tema che aveva affrontato anche in Canada, lo aveva presentato anche una sorta di ricetta per evitare appunto fallimenti di grandi portate. Sentiamo a Davos, appunto, sentiamo Draghi cosa ha detto però a Napoli sempre su questo. La crisi ha mostrato l'effetto devastante dei fallimenti di grandi istituzioni finanziarie. I governi e le banche centrali sono intervenuti per mitigarne l'impatto. Così facendo hanno talvolta sostenuto e protetto le stesse istituzioni all'origine della crisi. L'azzardo morale si è aggravato con la crisi. Le istituzioni finanziarie si sentono protette dal rischio di fallimento e dal timore stesso che esso incute. Assumono nuovi rischi e, grazie alle condizioni straordinarie di mercato che si sono create dopo la crisi, realizzano ingenti profitti. Ridurre l'azzardo morale è obiettivo condiviso. Lo si intende perseguire limitando la probabilità dei fallimenti e la vastità del danno che apportano. E questo era un altro contributo appunto della relazione del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, al Forex di Napoli. Prima di commentare questa parte vorrei ritornare sulla questione del rischio sovrano con la domanda di Marco da Roma, rivolta ai nostri ospiti di questa mattina. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è preoccupato per l'Italia, non è il primo. Ma io sono preoccupato dal 1987, dunque non è che da oggi, e in effetti poi un pochino mi piace giocare l'economia. E mi rendo conto che poi l'avevo detto. Le piace detto giocare all'economia? All'economia. E mi rendo conto che l'avevo detto, poi puntualmente si va a verificare. Qui abbiamo i conti della serva, semplici semplici. Lo Stato italiano si legge su una bilancia veramente proprio al minimo, oltre non possiamo andare. Ci abbiamo società che chiudono, partite IVA che chiudono, piccole e medie aziende che chiudono, imprese che se ne vanno all'estero perché c'è un costo minore di produzione e di costi proprio di gestione di qualsiasi tipo di attività, perché abbiamo una pressione fiscale reale, senza andarci a raccontare sciocchezze, 66% di pressione reale. O io dico, come si fa tra 6-8 mesi, massimo un anno e mezzo, a coprire questo squilibrio? Perché avremo pensioni da pagare comunque, stipendi da pagare comunque, e casse dello Stato che sono fuori, e ci abbiamo il classico, l'esempio che lo Stato non paga i fornitori, cioè qui è proprio l'esempio dell'azienda che quando non ce la fa più a pagare, cosa fa? La prima il primo a risentire del danno è il fornitore, cioè quello che fornisce un servizio. Dunque, Marco, però fino adesso per fortuna le nostre aste sono abbastanza frequentate, le aste dei titoli di Stato, per cui al momento questa preoccupazione non ce l'abbiamo. Io prendo la sua considerazione, la giro a Gregorio De Felice, adesso dobbiamo andare anche a sentire suggerimenti per chi è in viaggio, però De Felice ci metto anche questa riflessione accanto a quella di Marco. Qualche giorno fa, commentando in misura molto simile un ascoltatore il tema, lo stesso tema sostanzialmente, il numero uno di Schroeders in Italia, Giuseppe Marti, ci ha detto: è tutto vero quello che gli ascoltatori dicono, però è anche vero che l'Italia comunque vive in una situazione di debito alto da tempo e ha avuto dei tassi di crescita recenti in termini percentuali molto inferiori rispetto ad altre economie che si sono dovute indebitare improvvisamente per gestire la crisi. Questo in qualche maniera rappresenta una cassaforte per noi, una situazione più rassicurante. De Felice, allora, il debito pubblico italiano e le preoccupazioni dei nostri ascoltatori. L'osservazione di Marco è corretta, il punto però è che non esiste un livello di per sé del debito pubblico o del deficit pubblico che implica l'insostenibilità del debito. Facciamo due esempi: in Giappone il rapporto tra debito pubblico e PIL è pari al 220%, quindi molto più alto che in Grecia o in Italia. Negli Stati Uniti il deficit pubblico in rapporto al PIL è al 10%, ma nessuno si pone oggi la questione che gli Stati Uniti possano non essere in grado di ripagare il debito. Allora, il vero punto è: ci sono nell'economia così indebitata delle prospettive di crescita, di incremento della produttività e di solidità finanziaria non soltanto della parte pubblica ma anche della parte privata, in modo da tenere tutto quanto insieme? Ecco, venendo all'Italia, se noi consideriamo l'insieme delle famiglie italiane come una grande società per azioni, chiamiamola famiglie SPA, e abbiamo un livello di indebitamento che non è particolarmente alto, è la metà in rapporto al PIL rispetto ai paesi anglosassoni, un costo del debito che quindi è basso, e quindi la tenuta insieme dei conti finanziari di questa famiglia SPA è di estrema tranquillità, e quindi questo è un'ottima notizia per le banche italiane e compensa in qualche modo la situazione finanziaria del debito pubblico italiano. Quindi vanno visti i conti finanziari in tutte le loro componenti. Allora, Claudio Segre, accontentiamo l'ascoltatore che prima ci aveva richiesto di ridare una definizione del Forex, in cosa consiste questo appuntamento annuale degli operatori finanziari. Ci sono i soci AIAF, gli analisti finanziari, poi ci sono i tesorieri delle istituzioni creditizie, ma anche gli altri operatori finanziari, quindi concretamente chi? No, specifichiamo allora. La sostanza è questa: nacque come semplicemente come Forex, acronimo di Foreign Exchange, quindi di cambi esteri. Di fatto, gli operatori del mercato di cambi? Esattamente. L'appuntamento invece si è ampliato a tutta la platea degli operatori finanziari e degli analisti finanziari, quindi di fatto a oggi è l'incontro degli analisti finanziari rappresentati da AIAF e dagli operatori dei mercati finanziari rappresentati dalla neonata Assion Forex, quindi operatori dei mercati dei capitali che si sono uniti a cambisti e tesorieri in un unico bacino di operatori di fronte a regulators e di fronte evidentemente agli investitori a rispondere di quelle che sono evidentemente normative e tematiche di mercato in questo convegno, che è un appuntamento importante perché ovviamente arrivano tutte le banche. C'erano più di 1200 presenze, 500 banche rappresentate, la presenza di Banca d'Italia, di Consob, delle più alte autorità finanziarie, quindi un importante appuntamento di confronto, di confronto dove, ribadisco, le due associazioni AIAF e Assion Forex sono poi i padroni di casa, nonché gli organizzatori dei vari workshop. No, ma infatti voglio ricordare solo che due volte l'anno il governatore della Banca d'Italia esprime delle considerazioni ufficiali, lo fa a maggio nelle considerazioni finali, appunto l'appuntamento tradizionale di Banca Italia e all'appuntamento appunto del Forex. Allora, Gregorio De Felice, che cos'è questo azzardo morale di cui ha parlato ieri Draghi, tanto per spiegarlo in termini semplici ai nostri ascoltatori? Sì, l'azzardo morale è quando si prendono dei rischi sapendo che poi ci sarà una soluzione, ossia investire in un paese che può essere molto rischioso, ma sotto sotto sono convinto che quel paese sarà salvato. Ecco, questo in parole molto semplici che cosa vuol dire l'azzardo morale. Quindi è qualcosa che diventa poi pericoloso, perché se creiamo l'aspettativa che tutti e chiunque verranno salvati anche in situazioni debitorie molto gravi, poi questo genera questo cosiddetto azzardo morale e quindi fa venir meno in qualche modo quella che è la corretta valutazione del rischio. Draghi ha detto che la crisi ha dimostrato che fallimenti di grandi istituzioni, riferendosi a Lehman Brothers, porta ad una situazione drammatica naturalmente sul mercato, per cui lei ritiene che d'ora in avanti ogni possibile fallimento di grandi proporzioni verrà scongiurato, si arriverà a delle regole anche per disciplinare un po' eventualità di questo tipo? Beh, questo è anche uno... perché Lehman Brothers è stata devastante, ma è stata anche una bella lezione per il mercato. E certo, questo è uno dei temi sul tappeto in questo momento. Infatti a Basilea, ma un po' nelle cancellerie di tutto il mondo, si discute che cosa fare per le istituzioni finanziarie particolarmente grandi che possono determinare un cosiddetto rischio sistemico, ossia un rischio che si allarga a tutti gli operatori. Attenzione ancora alla Grecia. Stiamo attenti che la Grecia non diventi la Lehman Brothers del 2010, quindi nel creare delle aspettative di soluzione del problema bisogna, secondo me, essere prudenti, ma al tempo stesso però bisogna poi risolvere in maniera molto concreta i problemi sul tappeto, quindi chiedendo a fronte di aiuti alla Grecia delle serie contropartite politiche di decisioni in tema di politica economica, perché la Grecia faccia dei passi per mettere a posto i propri conti pubblici. Anche loro per la verità hanno presentato la loro ricetta di risanamento dei conti, creando però uno scompiglio sociale nel paese enorme in questo periodo, lo stiamo vedendo. L'euro è saldo, ha detto Draghi, Claudia Segre. C'è un ascoltatore che dice, adesso cerco di leggerlo sperando di non sbagliarmi perché è un po' confuso questo messaggio: gli Stati Uniti hanno difeso il dollaro nei mesi scorsi perché loro dobbiamo subito pensare ad un disastro di una svalutazione che sarebbe auspicabile nell'eurozona. Non so, insomma, 1,36 il rapporto di cambio, la scorsa estate era meno 1,45, in ogni caso la moneta unica europea ha risentito della crisi greca. Verso quale livello potremmo arrivare, visto che il tema valutario è sempre di grande interesse per i nostri ascoltatori? Ma l'osservazione dell'ascoltatore è molto interessante, è vero, in fondo diciamo che portando il dollaro sino a 1,60 si è avviata una sorta un po' di svalutazione competitiva del dollaro, ed è esattamente quello che noi tra virgolette stiamo favorendo, perché questo rafforzamento del dollaro, peraltro anche causato da situazioni contingenti come ricordavamo il caso di Dubai stamattina nello specifico, vede un primo obiettivo chiaramente molto vicino a 1,34, una fase di debolezza dell'euro che noi auspichiamo assolutamente per la parte nostra, diciamo così, come economisti, che ci porti a dei risultati effettivi a livello competitivo, di rientro di competitività soprattutto delle nostre esportazioni europee che in questo momento languono, e che quindi porti questi effetti che non possono essere immediati perché l'indebolimento è avvenuto come svolta alla fine dello scorso anno, ma che chiaramente entro il primo trimestre inizieranno a dare i loro effetti positivi all'Europa. Quindi un'occasione per l'Europa e un'opportunità, come si dice, come diceva l'ascoltatore, svalutazione competitiva che tra virgolette è giusto anche cavalcare. Segre, noi stiamo quasi chiudendo, qual è la parte che della relazione di Draghi a lei è interessato di più? Ma senz'altro per affetto atavico, quello chiaramente dei paesi emergenti, e quindi la dimostrazione che la Cina è una locomotiva forte, e lo confermano i dati e lo vediamo negli effetti, lo vedremo nell'Expo di Shanghai da maggio, e il Brasile e il Latin America, un punto di diversificazione importante nel momento in cui in Europa fa un po' ancora troppo freddo e in Asia forse è un po' troppo lontano dalla nostra valutazione di investimenti. Allora, so che dovrei chiederlo a Segre, ma la giro a Gregorio De Felice, magari ha qualche indiscrezione in più. Dove andiamo l'anno prossimo con il Forex? Non si sa ancora, lo so. No, questo davvero. Ma soprattutto per lei, Mario Draghi va alla guida della Banca Centrale Europea? Ma lo speriamo tutti, non solo come italiani ma anche come europei. Ha delle competenze eccezionali, quindi ha tutti i requisiti tecnici, umani, relazionali per per farlo non solo bene, ma direi in maniera eccellente. Speriamo che questi veti europei, ma forse anche domestici, non insistano. Non so se ce la faremo a vincere questa battaglia, di portare questa autorevolissima personalità in Europa. In ogni caso, noi sta bene anche che sia qui, insomma, che faccia anche il suo lavoro qui in Italia. Io vi ringrazio molto per essere stati con noi, ci risentiamo probabilmente presto, spero di non dovervi tornare ad invitare addirittura fra un anno al 17° Forex. Grazie a Claudia Segre. Alla prossima, grazie. E a Gregorio De Felice, buon lavoro. Arrivederci. Noi di Salvadanaio ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.